Beh, una manifestazione che, come dire, è il minimo sindacale, visto quello che sta succedendo, in poche parole possiamo riassumerlo così: c'è un governo il cui azionista principale è Confindustria, oltre all'Unione Europea, e ambedue, anche notizie di oggi, no? Spingono assolutamente perché siano ripresi i licenziamenti di massa nel nostro paese. È vero che sono stati molti licenziamenti anche durante il cosiddetto blocco, però sbloccare adesso i licenziamenti vorrebbe dire una macelleria sociale senza avere alcun altro strumento in grado di fare fronte ad un attacco così violento nei confronti dei lavoratori, dei ceti popolari in generale. A questo, alla questione dei licenziamenti, va aggiunta la questione della deregolamentazione degli appalti, che dal punto di vista anche della prospettiva è addirittura anche peggio della questione dei licenziamenti per tanti motivi, insomma, perché di fatto andrà a santificare il fatto, insomma, che i lavoratori non contano nulla per quello che riguarda gli appalti, ma contano di fatto solo il massimo ribasso. È vero che stiamo assistendo a un balletto fra i sindacati concertativi e il governo sulla percentuale del massimo ribasso, però nella sostanza questo è quello che succederà. Proprio mentre noi, ad esempio, stiamo cercando di condurre una vertenza di carattere generale proprio sulle condizioni dei lavoratori precari, dei lavoratori nel nostro territorio soprattutto, che lavorano in appalto alle cooperative, che quindi lavorano soprattutto per gli enti pubblici con contratti però che sono vergognosi. L'altra questione, l'ultima che si collega a questo, è la questione della sicurezza intesa anche come salute nei luoghi di lavoro e addirittura direi vita nei luoghi di lavoro, perché qua siamo di fronte a un'escalation anche di morte sui posti di lavoro che grida vendetta. Di fronte a questo ci sembrava al minimo poter organizzare un presidio che tenesse insieme tutti coloro che la pensano in questo modo e che comunque pensano che sia importante in questo momento dare visibilità ad un'opposizione che purtroppo è ancora molto debole e che dobbiamo rafforzare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Slogan di questa manifestazione è "non siamo carne da macello", perché insomma lavoratori e lavoratrici lo stanno diventando sempre di più nella gestione di questa pandemia. È uno slogan un po' truce se vogliamo, ma riassume esattamente la condizione di cui dicevo. Beh, insomma, per un anno e passa siamo stati sommersi solo da notizie relative chiaramente alla sicurezza sanitaria, alla pandemia, eccetera. In queste ultime settimane stanno emergendo tutte le questioni di carattere sociale ed economico legate al mondo del lavoro e la situazione è veramente disastrosa. Nonostante da ieri mi sembra ci sia un tentativo molto mediatico da parte sia del governo che dell'Unione Europea che dei sindacati che sostengono questo governo di far apparire che siamo addirittura di fronte ad una possibile rinascita come dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quella è pura follia, è un inganno nei confronti dei lavoratori e comunque dei cittadini in generale, perché non siamo di fronte a una ripresa di quel tipo, siamo di fronte invece al tentativo di fare pagare il prezzo anche della pandemia ai lavoratori e ai settori popolari anche nel nostro paese, ma non solo, tra l'altro. Sui giornali in questi giorni si moltiplicano gli imprenditori che si lamentano che non trovano giovani, forza lavoro, soprattutto nei ristoranti, eccetera, e puntano il dito contro il reddito di cittadinanza. Cosa ne pensi? Intanto rimango ancorato al fatto che il lavoro salariato è quello da difendere, è quello da sostenere ed è quello che può essere il motore di un cambiamento anche dei rapporti, diciamo, fra le classi nel nostro paese. Quindi quando sento anche commercianti che pure possono avere redditi non tanto alti piangere in TV, francamente non mi commuovo. Detto questo, i nodi stanno emergendo, cioè la cosa che tu hai appena detto di questi commercianti, non solo, che vanno in TV a reclamare sostanzialmente un'ulteriore maggiore flessibilità del lavoro, un'ulteriore maggiore precarietà del lavoro proprio in quei comparti dove la precarietà la fa da padrone, dove il lavoro in nero la fa da padrone, grida vendetta davanti a Dio, cioè non sono nostri alleati. Durante la pandemia è successo di tutto, abbiamo visto cose incredibili, abbiamo visto anche sindacati, anche diciamo che stanno pure sul terreno del conflitto, pensare alleanze di questo tipo con questa fetta di padronato. Purtroppo non si può fare perché le condizioni oggettive, gli interessi a difendere sono diversi, è molto semplice, sarà molto schematico, ma però quello che sta succedendo sta dimostrando questo. Il reddito di cittadinanza è stato un tentativo per metà abortito e forse di più, però è stato comunque un tentativo di dare un reddito sicuro a tutti. La questione del reddito in un paese a capitalismo avanzato come il nostro è una questione seria e un reddito garantito deve essere dato a tutti, che lavorino o che non lavorino.